Florenzia. Perché non riesco più a fare senza, quando la tradisco con una partenza. Audacine, agguanto il cuore con prepotenza. Rappresento chi la vive nei circoli, boccette picco già pupille come follicoli. Per chi gira per centri fa lo stesso nei vicoli, trova un americano che si stimpa sui levici. La movida per le vie di Santa Croce, girare scordito e parte un coro, ti c'è ancora voce. Gira per viaggi, gira a destra, dopo tre travoni, fermarsi a un bar, tre ore, nove negroni. Un grano alla marcia, transporter al club. Un misto di etnie, le voglio tutte nella mia città, e della mia città, da fino all'aldilà. Già, quando sarò io ad essere di Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Un fuoco viola che non si arresta. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. La nostra terra, la nostra essenza. Cosa mi guardi con quegli occhi, uomo? Sai che quello che hai davanti puoi chiamarlo re. Vivo Firenze come fosse il mio privé. Sopra piazzale con sei casse di Moe. Tra le sue strade il fuoco riesco a accendere. Per questo chi mi vede in giro grida hey. Questo tu non puoi competere. Sto troppo in alto proprio come il Davide. La mia gente ha le teste pazze. Valorosi dalle quattro piazze. Quattro colori come quattro grazie. Alza calici rendendo grazie. Sopra il giglio sto seduto. La mia zona è statuto. Le mie rime il suo tributo. Per Florenzia, per Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Un fuoco viola che non si arresta. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. La nostra terra, la nostra essenza. Tira sulle mani per Firenze, uomo. Connessione, statuto, rifredi fino al Duomo. Rappresento il mio quartiere in ogni atomo, mai dopo. Tengo questo suono caldo e vero perché è buono. Impara dalla storia della nostra gente. Siamo avanti anni luce ed è evidente. Granducato di Toscana indipendente. L'influsso sulla storia è sorprendente. Figlio della città del Ciglio, il mio bagaglio va dal singolo vicolo fino a zona stadio. Ma il vero orgoglio è la nostra gente. Fiorentino nato e voglio restarlo per sempre. Dimmi tu cosa vuoi di più, ci sa. Il dialetto migliore di stecche di tre dita. La Fiorentina e poi va in via. Riconosci l'evidenza e grida per Florenzia. Cia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Un fuoco viola che non si arresta. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. Uomo, questa è Florenzia. La nostra terra, la nostra essenza.